vivo da una landa desolata. Sono solo in questa triste mattinata. Voglia di studiare scappata. Mia madre arrabbiata perché penso a far serata. E non c'è nessuno che mi tiene a bada, perché fra neanche lei con mio padre ci parla. Quindi sono solo io senza banda, quindi sono solo io qualunque cosa accada. Ho 20 anni e non voglio vivermi per strada. Monte in sella, sushi bar, un'altra consegna. Per finire la scuola fra prendo il diploma, poi università fra o si lavora. Fuori di casa, magari su una cassa. Sfido il mondo a testa alta, treno d'andata. La bella addormentata si è svegliata, quindi ora fra ratatata. Non mi perdo, non sto fermo, strada facendo e imparerò. Tu mi cerchi, io ti cerco, ci incontreremo, non lo so. Puoi fermarmi, ostacolarmi, e ogni volta ti salterò. Zio cresco, mi sento vecchio, zio cresco, mi sento vecchio, fra.